si avvicinarono i capi delle case paterne, delle famiglie dei figli di Galaad, figlio di Machir, figlio di Manasse, delle famiglie dei figli di Giuseppe, e parlarono davanti a Mosè e davanti ai principi, capi delle case dei figli di Israele. Dissero: «Il Signore ha ordinato al mio Signore di dare la terra in eredità per sorte ai figli di Israele, e il mio Signore ha ricevuto ordine dal Signore di dare l'eredità di Zelofkad, nostro fratello, alle sue figlie. Se andranno spose di uno dei figli delle altre tribù dei figli di Israele, la loro eredità sarà sottratta dall'eredità dei nostri padri e sarà aggiunta all'eredità della tribù nella quale saranno entrate. E quello che abbiamo ereditato per sorte ci sarà sottratto. Quando ci sarà il giubileo per i figli di Israele, la loro eredità sarà aggiunta all'eredità della tribù nella quale saranno entrate, e la loro eredità sarà sottratta dall'eredità della tribù dei nostri padri». Mosè comunicò ai figli di Israele quest'ordine ricevuto dal Signore: «I figli di Giuseppe parlano bene. Questo ha ordinato il Signore alle figlie di Zelofkad. Esse saranno le mogli di chi va bene ai loro occhi, solo saranno mogli nelle famiglie della tribù dei loro padri. L'eredità dei figli di Israele non girerà da tribù a tribù, perché tra i figli di Israele ognuno sarà attaccato all'eredità della tribù dei loro padri. Ogni figlia che erediterà dalla tribù dei figli di Israele sarà moglie in una delle famiglie della tribù di suo padre, in modo che ognuno dei figli di Israele entri in possesso dell'eredità dei propri padri, e l'eredità non giri da tribù a tribù, perché le tribù dei figli di Israele saranno attaccate, ognuna, alla propria eredità». Le figlie di Zelofkad fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè: Macla, Tirza, Ogla, Milca, Noa, figlie di Zelofkad, sposarono i figli dei loro zii. Si maritarono nelle famiglie dei figli di Manasse, figlio di Giuseppe, e la loro eredità fu della tribù della famiglia dei loro padri. Questi sono gli ordini e le disposizioni che il Signore diede per mezzo di Mosè ai figli di Israele nella steppa di Moab, presso il Giordano di Gerico.